Pirati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Uno, due, tre. O biscotta mocca a te, Uno, due, tre. O biscotta piace a te. Uno, due, tre. O biscotta mocca a te, Uno, due, tre. O biscotta piace a te. Piace sta vicina a me, mi piglia sotto braccio e io ci saccio che la devoto a me. Già dalle dichiarazioni di Marquez, no, da giovedì a venerdì, da sabato, dove diceva che avrebbe fatto di tutto per battere Lorenzo, lì ho avuto la conferma che avrebbero fatto il biscottone, ecco, noi l'abbiamo, in questi giorni l'abbiamo chiamato il biscottone, perché è un po' quello che fanno le squadre di calcio quando non devono, no, non devono alla fine della stagione, non devono andare in Serie B, allora si mettono d'accordo e fanno il pareggio, no? Allora io voglio essere chiaro, 800 24 00 24, sono qui con Carlo Genta, c'è già Umberto Zappellone, vice direttore della Gazzetta dello Sport collegato, noi ci ridiamo, ci scherziamo, ma quello cui abbiamo assistito oggi è uno spettacolo indegno, una farsa che copre di ridicolo il titolo di Lorenzo e il motociclismo tutto. Io la penso così e vi invito a chiamare 800 24 00 24, siamo fino alle 19, cercheremo di dar spazio a tutti, anche a quelli che stavano con Lorenzo e magari ci stanno anche oggi, perché ci sono, abbiamo letto i tweet, i messaggi, 349 238 6666, quindi noi non censuriamo assolutamente nessuno, anche se abbiamo una posizione chiara. Carlo, no? Ci mancherebbe altro censurare qualcuno, anche quelli che dicono ma quell'evasore l'ha pagata, la solita demagogia. No, io non ci rido, non ci scherzo, sono incazzato nero. Cioè, dico la verità, ma lascio emergere i miei sentimenti, perché tu sai che io sono a favore del gufismo, del tifo contro, ovviamente in termini ironici, totalmente sportivi. Adesso so contro chi tifare per i prossimi 10, 12, 15 anni. Umberto Zappelloni, direttore, ciao. Ciao, direttore. Ciao, ciao, cara, credo che il titolone ce l'abbia dato Valentino, perché il biscottone è il titolo migliore di tutti, sì, perché è chiaro quello che è capitato in pista a Valencia. Cioè, questo non ha mai attaccato, aveva una moto più veloce, si vedeva dai parziali, non ha mai attaccato. L'unico sorpasso che ha fatto è il controsorpasso al suo compagno di squadra quando questo stava cercando di andare a riprendere la moto. Come a dirgli, stai lì e fai il bravo, direttore, stai lì e fai il bravo, non rompere i coglioni, non pensare di andare ad attaccare Lorenzo. Una cosa sportivamente indegna. Ma tra l'altro è stato lo stesso Lorenzo a svelarlo, perché Lorenzo, la sua ingenuità, finta o presunta che sia, ha detto chiaramente: sono stato protetto dai due della Honda che preferivano vincesse uno spagnolo e così il titolo è rimasto in Spagna. Sì, il che, direttore, secondo me apre poi anche un discorso più ampio. Noi, ripeto, abbiamo tempo fino alle 19, perché Marquez ovviamente dal nostro punto di vista, ma ripeto, se qualcuno la pensa diversamente siamo qui, è colpevole, colpevole assoluto di antisportività. Però c'è una federazione, c'è chi comanda il motociclismo mondiale che ha consentito che questo mondiale fosse falsato nelle ultime tre gare, ed evidentemente nemmeno davanti all'evidenza, nemmeno questa volta, nemmeno col sermoncino del giovedì è stato capace di evitare questa cosa. È stata una farsa il sermoncino del giovedì, ragazzi. E io alla Dorna aggiungerei la Honda, perché la Honda è una grandissima casa motoristica mondiale e la Honda è stata spettatrice di quello che ha combinato Marquez in pista. Cioè, piuttosto che vedere vincere una Honda, ha fatto vincere comunque una Yamaha anche la gara di oggi, e quindi anche la Honda che continua a stare col suo pilota forse qualcosa dovrebbe dire, perché qui ne esce sconfitto soprattutto all'idea di sport che tutti abbiamo, perché se due piloti che lottano per il titolo poi finisce che vanno uno contro l'altro, è capitato tante volte nel motociclismo e in Formula 1, è sport. Pazienza, succede. È sport. Ma se uno corre semplicemente contro un altro per rompere le scatole a un altro perché gli sta antipatico, perché quello è troppo grande per lui e pensa di non raggiungerlo mai, cioè, è una cosa che non esiste, assolutamente. Lorenzo, io secondo me, ha meno responsabilità, questa cosa se l'è trovata quasi fatta in mano, sì, non credo che sia dietro un accordo, perché Lorenzo non mi sembra così così abile a fare le trame dietro. Lui poi ha vinto sette gare, è stato velocissimo durante tutto l'anno, il mondiale se lo è meritato. Sì, avrebbe, però oggi possiamo, possiamo dire che è un campione a metà, ma anche meno. Io con l'asterisco. Campione con l'asterisco. Campione con l'asterisco. Forse in Spagna dimenticheranno, ma che noi in Italia ricorderemo sempre come il decimo titolo di Valentino Rossi soffiato all'ultima gara e per grazia ricevuta, anzi per grazie a Marquez, finita invece nella bacheca di Lorenzo. Ma per noi questo rimane un mondiale che Valentino ha dominato dall'inizio alla fine, ha vinto meno gare, ma è stato molto più costante di Lorenzo, è stato più efficace del suo compagno di squadra più giovane e più veloce di lui e meritava questo titolo mondiale. Lui l'unico grande errore l'ha fatto cadendo nel tranello di Marquez e reagendo in quel modo a sé. Sì, resta la sensazione, direttore, che questa direttore, resta la sensazione che questa fosse l'ultima chance per Valentino. Ha detto correrò ancora l'anno prossimo, però sì, è vero, però quello che sento come questa, eh? È difficile. Appunto. Una stagione perfetta come questa in cui appunto è sempre arrivato in fondo veramente molto molto difficile, anche perché quel figlio di puntini puntini di Marquez comunque è uno che poi in moto ci sa andare, quest'anno ha buttato via lui tante tante gare perché è caduto e quindi ho paura che per Valentino questa è veramente la grande chance di sì, carriera. L'anno prossimo Marquez sarà certamente più performante. Io vi fermo. Avevo pensato agli ascoltatori dopo il traffico, invece mi segnalano Enrico da Catania, vittoria di Lorenzo su Valentino Rossi. Allora, siccome a noi piace il contraddittorio, mi pare di capire che Enrico la pensi diversamente. E allora, benvenuto Enrico, ciao. Grazie, grazie, buonasera. Eccoti. Valentino Rossi ha sbagliato, perché quando va a indurre che Marquez era il miglior tifoso di Lorenzo, ha sbagliato perché l'ha sorpassato all'ultima curva. In secondo luogo, in qualunque caso, se arrivava secondo Lorenzo, oggi vinceva egualmente. Perciò Marquez, che causava un incidente o qualche altro guaio, non aveva senso. Sarebbe stato condannato a tutto il pubblico spagnolo. Però posso dire una cosa, Enrico? Anche questo non è vero. Perché, ad esempio, Pedrosa è rimasto lì a un secondo. Secondo me Pedrosa ha fatto il suo. Se davanti avessero ingaggiato battaglia, magari Pedrosa poteva anche essere competitivo per la vittoria. Non so, direttore, come la pensi? Pedrosa poteva andare a rompere le scatole a Valentino. In una gara vera, Pedrosa oggi poteva vincerla. Prima e seconda, non mi avrebbe meravigliato in una gara vera vedere le onda prima e seconda oggi. Ce ne avevano, Pedrosa soprattutto al finale, assolutamente. Cioè, ripeto, poi, noi non abbiamo la controprova, direttore, però in una gara in cui il secondo a due decimi da Lorenzo non fa una staccata, evidentemente lo favorisce perché consente anche a Lorenzo di tenere una certa distanza sul terzo, che è Pedrosa. Quello davanti lo ha messo. E poi ricordiamoci quello che ha fatto invece Marquez con Valentino a Sepang, per sei giri lo ha tormentato, è stato un sorpasso e contro sorpasso, oggi non ha mai accennato al minimo attacco che gli stava davanti. Aspettavo che cosa? Aspettavo che finisse la gara per festeggiare con l'ultimo mondiale. Aspettava l'anno prossimo, probabilmente. È difficile avere altre opinioni. Avete già un'idea? Guarda, te la rubo, so che è un segreto professionale, però noi ci proviamo. Avete già una mezza idea domani di come titolate sulla Gazzetta? Il titolone te lo dicevo prima, potrebbe biscottone. Il biscottone, poi adesso inventerò un commento e poi stasera decideremo anche a seconda di come andrà la Serie A, se l'Inter resterà da sola in testa, se verrà raggiunta dalla Fiorentina, anche come distribuire gli equilibri della prima pagina, insomma. Certo, perché c'è anche il calcio, adesso diamo i risultati. Perché poi, volendo. C'è anche quella cosettina che si gioca. Sì, assolutamente. Grazie direttore. Ci vediamo domani, grazie, direttore. Ci vediamo domani sera. Ciao. Grazie Umberto Zappelloni. 800 24 00 24. Tutti quelli che pensano sia stata una farsa li aspettiamo, ma aspettiamo anche quelli che stavano e stanno con Jorge Lorenzo. Subito torniamo. Adesso io a costo di sembrare cattivo, però dico in effetti Marquez, che in Malesia fa una gara nella quale passa e ripassa 100 volte, e oggi che è sempre attaccato a Lorenzo e non ci prova nemmeno una volta, abbi pazienza, ma due sospetti me li fa venire. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta convocati. 1, 2, 3. O biscotto bocca a te, 1, 2, 3. O biscotto piace a te, 1, 2, 3. O biscotto bocca a te, 1, 2, 3. O biscotto piace a te. Sono stato sempre competitivo, sempre bravo in gara e non ho mai sbagliato. Nella seconda parte di stagione, per dire tutto, Orga è stato molto bravo. Fino a quando le cose sono andate normalmente, ero in testa fino a Motegi con 18 punti, no? Ma da Phillip Island è successo qualcosa di strano che nessuno si sarebbe aspettato. Il comportamento di Marquez è stata una cosa veramente imbarazzante, bruttissimo per il nostro sport, una cosa che non era mai successo prima, una cosa che nessuno si aspettava. Già da Phillip Island ha cominciato a fare il guardiaspalle di Lorenzo e quindi io mi sono venuto a trovare nella situazione di dover lottare con due piloti, no? Questo Valentino Rossi, c'è chi scrive 349-238-6666, ma a parte invertite Iannone non avrebbe aiutato Rossi, ma non così. No, ma poi diciamo c'è chi dice dai. Se fossi Valentino l'anno prossimo gareggerei solo per intralciare Paperino Marquez. Un altro amico, Paolo, non vorrei essere Marquez l'anno prossimo, Valentino gliela farà pagare. Poi ancora c'è chi gode per la sconfitta dell'evasore fiscale e ride del patriottismo delle ultime settimane, così mal riposto, per carità, qui stiamo parlando di sport, però amico. 800 24 00 24, allora aspettiamo anche le voci di Garcia, di Pioli e di Allegri. Tra l'altro ci sarà anche a parlare di quel rigore che ha un po' condizionato il derby, Roma, sì. Rigore assolutamente fuori aria, Gentiletti su Dzeko, ma abbiamo tempo. Nella seconda ora c'è anche un grande ospite di calcio. 800 24 00 24, Marco da Varese. Marco. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie. Direi che ingenuo non è stato Lorenzo quando ha detto che i suoi compatrioti l'hanno protetto, l'ha detto secondo me volutamente per far capire come stanno le cose, anche per dare un attimino una lezione dal suo punto di vista a Valentino, per cui onestamente qualche colpa anche lui ce l'ha, premesso il fatto che di fatto ha vinto un sacco di corse, quindi. Ma quello che volevo sottolineare è che, senza commentare il comportamento di Marquez, che cioè, si commenta da solo, Valentino ha fatto due errori secondo me. Il primo è stato di gara a San Marino, quando ha perso un sacco di punti per una condotta di gara sbagliata, quando non si è fermato a cambiare le gomme quando pioveva, poi è tornato il sole eccetera, e poi l'errore è stato stuzzicare volutamente Marquez a Sepang prima della corsa, quando sinceramente non ne vedo la ragione. Avrebbe potuto fare la ragione te la spiego io. L'abbiamo vista, eh. La ragione è stata quella di rendere palese, di dichiarare la situazione, cioè di mettere in qualche modo Marquez sotto pressione, o comunque di togliergli il palavento, di metterlo allo scoperto nella sua condotta, perché già aveva capito tutto. Però alla fine gli si è rivoltata contro, quindi questo assolutamente forse sì. Col senno di poi se ne possono dire tante di cose. Chiaro, dispiace, però onestamente io sarei stato un attimino zitto prima e avrei parlato forse dopo, a giochi fatti. Lui evidentemente aveva capito cosa stava succedendo, ma io dico il senno di poi gli ha dato ragione, eh. Poi per carità le strategie possono essere tutte sbagliate, c'è chi dice anche quelli che Rossi ha superato non è che si siano dannati tantissimo. Beh, ci sono stati due o tre duelli che ci hanno tenuti incollati alla sedia, questo era Piero, però noi prendiamo le opinioni di tutti. È stato più veloce quando sono arrivati i fratelli Espargaro, certo. C'è stato qualche problema con Bradley Smith, c'è stato qualche problema. C'è Pierluigi? Sì, che sono, sei a San Paolo, giusto? Mi sto in viaggio verso, cioè in viaggio, perché entrati allo stadio di San Paolo, pronti per la partita. Hai visto Valentino oggi? Sì. Aspetta che ti riagganciamo quando si sente però il telefono. Felice dalla provincia di Brescia. Aspetta, felice. Sì, buongiorno, buonasera. Niente, io volevo solo ribadire che in sostanza Marquez ha fatto veramente una magrissima figura ed è palese davanti agli occhi di tutti. Poi, dopodiché, dall'anno prossimo 3, 4, 5 anni in poi vincerà tutto e tutto quello che ci sarà a vincere. Però la macchia, questa macchia resterà per sempre. Cioè non... Io purtroppo, da tifoso di motociclismo da sempre, ne resto veramente deluso da quello che ho visto in questi ultimi tre Gran Premi. Ho smesso di vedere il calcio 10 anni fa per tutte le varie per tutto quello che è successo, e da adesso il moto mondiale non so cosa succederà. Semplicemente ha perso la sua innocenza, ha perso la sua non abbiamo detto niente, la sua aria immacolata, ha perso la sua verginità. Sì, poi il ciclismo insegna come è difficile recuperare dopo l'amore dei tifosi. Però Giovanni, hai letto anche tu oggi il fatto che la Repsol potrebbe, cioè sta valutando se rimanere al fianco della Honda o no, ed è uno sponsor milionario, Pier, vediamo se riusciamo a riagganciarti. Sì. Eccoti. Sono qui. No, io di tutta questa vicenda so benissimo dei tre tipi umani, perché di moto so poco e niente. Ma questa è una storia che non riguarda soltanto le moto, riguarda proprio la vita. Quello che non vorrei essere come uomo, tre. Io non vorrei essere Marquez. Nel senso che preferisco tenermi eventualmente i peccati di Valentino, che sono stati quelli di aver comunque reagito male, aver commesso un errore, e è partita la brocca, diciamo noi, a Roma. Nel Gran Premio precedente, o anche al limite i peccati di Lorenzo, che non è stato elegante in alcune uscite, però insomma alla fine è ovvio che si stava giocando il mondiale, e quindi secondo me deve anche essere, non dico perdonato, ma ha fatto il suo gioco, si sta aggrappiato nel mondo, è ovvio che nella vita di un atleta è una cosa molto importante. Non vorrei essere Marquez, perché a me vedere Marquez oggi che ha fatto proprio il valletto. Il balletto, sì, il balletto. Io docile, ho il balletto, docile. Il cameriere. Che credo sia l'offesa peggiore per uno del motociclismo, essere docile. Sì, sì, esatto. Dando soprattutto la sensazione di poter essere qualcosa di diverso, no? Esattamente come nel Gran Premio precedente avevamo avuto la sensazione che potesse andarsene da Valentino, seminarlo e fare la sua gara. Non so se stavo lì a... Questa volta abbiamo avuto la sensazione che potesse andarsene, o quantomeno provarci con Lorenzo. Io non... Quindi è chiaro che ha fatto il suo gioco, il suo obiettivo era quello di far di Valentino e ci è perfettamente riuscito, quindi va bene così. Va bene così perché si accontenta. Gli spagnoli si accontentano, io vi invito a fare un giro sui siti. Aspettate che vi faccio sentire Allegri, i microfoni di Sky, che parla della vittoria della Juve ad Empoli. Intanto bisogna vedere anche un po' le cose in maniera positiva. È vero che ora siamo arrivati al settimo posto in classifica, siamo indietro la Juventus all'inizio del campionato, nessuno si aspettava che fossimo in questa posizione, però bisogna accettare la realtà, e quindi veniamo da una bella vittoria col Torino nel derby sofferta, da un bel risultato in Champions e oggi una vittoria a Empoli, quindi bisogna vedere anche il positivo, perché altrimenti non va bene portarci dietro questa negatività che in certi momenti soprattutto non serve. La squadra ha dei buoni valori, anzi ha degli ottimi valori, ci sono dei momenti in cui le cose non ti vanno bene, il calcio è questo, bisogna solo lavorare per migliorare e soprattutto per cercare di salire la classifica. Questo Allegri su una Juventus che ha fatto fatica anche oggi ad Empoli, poi avremo tempo e modo di parlarne, anche se questa cosa che è successa a Valencia si sta mangiando tutto, arrivano, Pier, centinaia di messaggi, c'è chi ha dubbi su Lorenzo in Australia che regala un secondo all'ultimo giro, c'è chi dice basta con il solito teorema italico del complotto Marquez contro Valentino, io non so, poi ma non è sarà teorema italico, ma Pier, questa è la sensazione che abbiamo tutti. Questa cosa qui veramente io non la sopporto, nel senso che noi siamo italiani, abbiamo mille difetti. Siamo il paese dei campanili, quindi ci rimproveriamo i difetti da una regione all'altra, dalla città all'altra, anche la polemica su Napoli in questi giorni. Siamo bravissimi nel dire quanto siamo corrotti, quanto siamo mafiosi, quanto facciamo schifo, quanto... poi di fronte a cose, a situazioni che sono evidenti, credo che si possa avere lo stesso tipo di atteggiamento, insomma, ma serenamente. Poi i mille problemi che abbiamo in Italia rimangono, non è che sto dicendo che va tutto bene, che dobbiamo essere felici e che siamo migliori, non siamo i migliori, accettiamo il verdetto del campo, perché questo è il verdetto del campo, ma possiamo dire che è un verdetto che è arrivato in circostanze quantomeno sospette, lo possiamo dire sì o no? No, oppure, possiamo essere arrabbiati o no? Cioè, penso sia un diritto, e poi ognuno ha diritto di tenersi le sue opinioni. Posso chiedere a Pierluigi, prima di lasciarlo andare, come ha visto il derby di Roma? Così hanno passato. L'ho visto, ma comunque qualche altro minuto ce l'ho. Allora poi ti agganciamo anche dopo il meteo. È abbastanza la partita che mi aspettavo. Cioè la Roma comunque secondo me sta dando nell'ultimo mese dei segnali di grande crescita, molto molto evidente. È una squadra ancora imperfetta, perché ancora non riesce a gestire le partite, a addormentarle come dovrebbe. Anche oggi alla fine ha rischiato nel finale di più di quello che secondo me il tipo di partita e il tipo di equilibrio in campo potesse far pensare, però mi sembra che insomma in questo momento sia molto meglio della Lazio, mi sembra che abbia innestato una marcia molto importante, poi si può discutere ovviamente sul primo episodio che è un episodio importante, ma al di là di che è il calcio di rigore ovviamente è fuori area, però sì, credo ci sia poco da discutere a livello di Moviola, esatto. se abbia condizionato o no la partita complessivo, il senso siamo in diretta, sì, cioè, però la sostanza della partita secondo me è stata abbastanza chiara, abbastanza precisa, no? E mi sembra che la partita di oggi rafforzi le possibilità, legittimi la forza di questa squadra. Allora, vediamo se riusciamo a fare Luca da Como e Paolo da Piacenza, prima almeno Luca da Como, prima di fermarci per il meteo. Luca. Sì, grazie, buonasera. Due cose rapidissime. Allora, vabbè, facciamo un distinguo su Pedrosa, che è un perdente quantomeno onesto, mentre invece veramente il comportamento di Marquez è inqualificabile sotto il profilo sportivo. Io vorrei con grande umiltà dire una cosa a Valentino. Valentino, molla il colpo, sei inarrivabile, hai dimostrato di essere un campione oltremodo molto umano. Io fossi in te, completerei l'opera verso questi due signori, siccome la MotoGP sei tu. Vai, di andarsi. Vinciti un paio di mondiali in Super Trophy con le altro tipo di moto come ha fatto Biaggi. Superbike, Superbike 11 o 12 mondiali. Perché tanto tu sei una leggenda vivente. Esci da signore, dimentica queste meschinità, tutto lì. Grazie mille per l'ospitalità. Sì, grazie Luca, sono in tanti, ma credo che Valentino abbia voglia di riprovarci l'anno prossimo. Oh, c'è un amico che anche scrive. Ha anche un contratto, ma credo che sia libero di fare un po' quello che vuole. Comunque, 349-238-6666, c'è un amico che scrive: cambiate titolo al programma. Marco si chiama, da tutti convocati a tutti moralisti. E adesso gli rispondiamo. Ma perché? Lorenzo è molto bravo e sarebbe stato bello giocarselo ad armi pari, giocarselo in pista, avrei potuto vincere o perdere, ma così è veramente una cosa brutta e penso che neanche lui non deve essere tanto contento. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Tutti convocati. Uno, due, tre. O biscotto, mocca a te. Uno, due, tre. O biscotto, viaggia a te. La verità è che ho fatto una gara di dare il massimo sempre, però sinceramente oggi le onde magari nel lato destro del pneumatico l'avevano meglio e sicuramente questo che ho esplicato, che loro sono spagnoli come me e sapevano lo che mi giocava, mi ha beneficiato perché magari senza quella piccola aiuta, magari Valentino che ha fatto una grande gara rimontando dall'ultimo al quarto, mi poteva quitare il campionato. Allora questo titolo è anche è mio, è nostro, ma anche di Spagna. In Malesia per 6 giri attaccandovi continuamente e oggi con Orge facevate gli stessi tempi e non l'hai attaccato mai. Tu capisci che con quello che c'è stato e da telecronista italiano io un sospetto ce l'ho e preferisco dirtelo in faccia che dirtelo alle spalle. A Indianapolis comunque ho fatto la gara dietro Jorge e ho attaccato la fine e qua più o meno voleva fare lo stesso, ma è quello che ti dico. Va bene. Pedrosa mi ha surpassato e dai, di là si è fatto casino. Oh, la frase di Lorenzo sul titolo spagnolo è clamorosa. Aspettate che vi faccio sentire Pioli, faccia dei giorni brutti dopo aver perso il derby. Microfono di Sky. Da rigore che non c'era. Senta, tra pochissimo allora ci andiamo sull'episodio. Esatto, sì, perché episodio da rivedere, anche se in realtà è abbastanza chiaro l'episodio a cui si riferisce Stefano Pioli, calcio di rigore che al decimo minuto del primo tempo ha consentito alla Roma di andare in vantaggio, l'affondo di Gentiletti su Dzeko falloso, ma diciamo una spanna fuori dall'area di rigore. Allora, Paolo da Piacenza, ma appena parlano dell'episodio, poi torniamo su Pioli, c'è anche Pierluigi Pardo dallo stadio San Paolo di Napoli, poi Pier mi dici che effetto ti ha fatto Lorenzo con quella frase lì sugli spagnoli, Paolo da Piacenza, sì. Intanto, Paolo. Sì, buonasera, come mi senti bene? Sì. Insomma, si può fare meglio, però se sei veloce vediamo se riusciamo a farla. Ascoltami, niente, volevo solo dire che nella mia visione delle cose, fino a Sepang, prima della gara, ha tentato di far saltare i nervi, che è il punto debole di Lorenzo, per interposta persona, citando Marquez con con quello che lui ha visto, con dei tempi che non gli tornavano, con delle cose che non gli tornavano e che sicuramente c'erano. Purtroppo poi alla fine sono saltati i nervi invece di quelli di Lorenzo e la cosa è andata a finire. Sì, questo senza dubbio, però visto oggi insomma la denuncia aveva un senso. Aspettate che c'è Pioli sul rigore, Pioli. Probabilmente si è sentito forte di una certezza che poi nei fatti non ha avuto, no? Certo, però purtroppo ha sbagliato, purtroppo per noi ha sbagliato. No, ma è vero. Pier, sulla frase di Lorenzo, se vuoi anche sul rigore, no, mi sembra che le immagini siano chiare. Sulla frase di Marquez, il progetto di Marquez e Lorenzo mi sembrava chiarissimo, cioè, se non si fosse messo in mezzo Pedrosa, penso che alla fine Marquez avrebbe superato Lorenzo all'ultimo giro, ma sarebbe stata un'ulteriore dimostrazione della beffa o se vuoi del biscotto. Ma comunque, ripeto, poi alla fine io credo che Valentino esca bene da questo mondiale, al di là dell'errore che rimane l'errore di Stefan, che nessuno lo cancella, però esca molto bene come immagine da questo mondiale. Sì, però Pier, la frase di Lorenzo è pazzesca, cioè sì, lui dice mi potevano attaccare, però viva la Spagna. Sì, vabbè, ma questo è il clima che si è creato, insomma, voglio dire, ma alla fine, voglio dire, in altre competizioni, in altri sport, penso al mondiale di ciclismo dove si gareggia di squadra, la logica può essere anche questa. L'importante è essere un po' meno ipocriti e comportarsi in maniera un pochino più corretta, cosa che non è successa. Lorenzo, in assoluto, ripeto, io non sono un esperto di moto, nella seconda metà del mondiale è andato meglio di Valentino. Valentino ha avuto tanta esperienza, ha messo tanta esperienza, ha fatto un sacco di podi, ha avuto un andamento molto più regolare, Lorenzo ha vinto più gare. Io non so dirti da esperto di moto, perché non lo sono, chi meritasse di più dal punto di vista tecnico. Ti dico che come è finita mi fa schifo, mi fa schifo e mi dispiace, perché credo che alla fine Valentino, per come si è comportato oggi in assoluto, meritasse, e credo soprattutto, cioè, che si è messo in mezzo Marquez. Era giusto che Valentino e Lorenzo se la giocassero in queste ultime due gare, in maniera assolutamente, e poi magari li avremmo accettato, credo. Ma assolutamente, ma qual è il problema? Perché Lorenzo è un grande pilota, e ti dico anche una cosa, che Marquez mi stava pure simpatico, te lo dico proprio sinceramente, da profano dei motori. È giusto, perché d'ora in avanti tu sai che siamo favorevoli al gufismo. Io ho dichiarato in apertura che so contro chi farò il tifo per i prossimi 12, 13, 15 anni. Sì, anche se molto giovane. Se dopo questo mondiale ci sarà un impatto, un rimbalzo di emozioni, non so come sarà l'anno prossimo, se crescerà l'interesse oppure no, insomma. Comunque via Pedrucci, via Iannone, che oggi è uscito subito, e niente, adesso qua c'è Napoli-Udinese, grande test. Hai le formazioni, Pier, così facciamo radio di informazione, radio di servizio, vediamo se ci sono novità del Napoli, che le mette per numero, quindi dobbiamo vedere. Comunque c'è Isai, c'è Koulibaly, c'è Goulam, c'è Albiol, quindi difesa confermata, ci sono Jorginho, Higuain, Allan, Amsi, Kinsini e Kayekor, quindi c'è il 4-3-3 che avete letto sui giornali, formazione tipo. Nell'Udinese c'è Terò che giocherà dunque da punta centrale con Bruno Fernandes alle sue spalle, poi per il resto mi sembra tutto confermato, non ci sono novità di formazione. Sapete, insomma, non è stato convocato ancora una volta di Natale nelle partite a Napoli, e sarà dunque 3-5-1-1 per l'Udinese, che arriva qui credo con l'idea di parcheggiare il pullman davanti alla porta di Carnetti. Assolutamente. Partita tra l'altro che assume un'importanza particolare, perché la vittoria di oggi dell'Inter a Torino spariglia, diciamo la verità, in testa. No, ma l'Inter, poi da domani ne parliamo con più calma. Sì. Sull'Inter è chiaro che qua 7 indizi fanno una prova bella grossa. Io continuo a pensare che Napoli e Roma abbiano qualcosa di più dal punto di vista tecnico, dell'organico e della continuità. Però è anche vero che una squadra che fino a questo momento non ha giocato un calcio spettacolare, ma che dice sempre che è un portiere così, che non subisce gol e che non ha le coppe, beh, insomma, non che è in testa alla classifica, credo sia ovvio doverla considerare a pieno titolo e col massimo rispetto come possibile favorita. Poi pesa anche la vittoria della Roma nel derby, classifica che in questo momento dice Inter 27, Roma 26, Fiorentina 24, vedremo stasera la trasferta Marassi. Napoli-Sassuolo 22, anche per questo Napoli-Udinese pesa davvero tantissimo per la squadra di Sarri, settimo impegno dei 7 in 21 giorni, quindi se c'è un'insidia è credo questa per il Napoli. Grazie Pier, buona ciao, partita. Pier, ciao, buon lavoro. Ciao, ciao. Ciao Pier, 800-24-0024, c'è Roberto Ungaro. Roberto. Ciao Roby. Ciao, un saluto a tutti. Dai, cosa ne pensi? Ci abbiamo sperato e invece è andata male. No, gara strana sotto gli occhi di tutti che Marquez ha voluto questo. Cioè è stato l'ago della bilancia, lo avevamo detto già tante gare fa e così è stato. Marquez aveva nettamente la possibilità di insidiare Lorenzo, non l'ha voluto fare. L'unico sorpasso l'ha fatto perché è stato punteggiato da Pedrosa. La speranza era lui, ma comunque anche se Pedrosa fosse stato davanti a Marquez poi per vittorie, Lorenzo ce l'avrebbe fatto lo stesso. Sì, Robby, però è stato odioso sì. il segnale che Marquez ha dato su Pedrosa. Sì. Come dire, fai il bravo, stai lì, non andare a rompere i coglioni a Lorenzo. Esattamente, proprio gli ha fatto il cane da guardia. Cioè Marquez aveva il passo assolutamente per farsi vedere, mettere la ruota davanti e tentare il sorpasso. Ha guidato come lui non è capace di guidare, è questo che ci ha lasciato lì basiti, perché Marquez è un uomo da tutto o niente, cioè lui comunque ci prova, attacca. E invece ha fatto il guardiano di Lorenzo, perché è stato attaccato tutti i giri, quando lui ha detto io gli ultimi 10 giri, dal decimo al quinto pensavo di provarci e invece non ha fatto niente. Quindi quello nella sua testa era già questa la tattica. Sì, ma noi non siamo obbligati poi a farci prendere in giro da Marquez, che anche dica che dal decimo quinto giro guarda, pensava di attaccare. Adesso sinceramente io non ho mai sentito abbiamo la dignità anche per evitare di farci prendere in giro. Cioè, lascia stare Valentino. Magari se c'è la facciamo risentire quella di Lorenzo dopo nel prossimo tutti, blocco, sì. Eccetera eccetera. Io posso capire le dichiarazioni di Valentino, non c'è di sorprendente, ma che mi sorprende è la dichiarazione di Lorenzo, perché quella è veramente epocale, Giovanni. Sì, assolutamente. Allora, c'è il traffico, ci sono anche Mario da Perugia e Piero da Milano, c'è Roberto Ungaro e abbiamo ancora più di un'ora, eh. Torniamo subito. E come no, è diventato come un po' il cross delle nazioni, no? O la vecchia 200 miglia che si faceva a Imola con le nazioni divise, ecco. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Tutti convocati. Uno e tre, o biscotto moccate, uno e tre, o biscotto viaggiate. È la verità che ho fatto una gara di dare il massimo sempre, però sinceramente oggi le onde magari nel lato destro del pneumatico l'avevano meglio e sicuramente questo che ho esplicato, che loro sono spagnoli come me e sapevano lo che mi giocava, mi ha beneficiato perché magari senza quella piccola aiuta, magari Valentino che ha fatto una grande gara remontando dall'ultimo al quarto, mi poteva quitare il campionato. Allora questo titolo è mio, è nostro, ma anche di Spagna. Questa frase di io volevo sapere cosa ne pensa Roberto Ungaro di questa dichiarazione. È offensiva. Roberto. Allora, questa è la conferma, perché lui è molto furbo, fare questa dichiarazione è un'ammissione che c'è stato un gioco di squadra spagnolo. E quindi questo gli consente di fare un grande balzo in avanti in Spagna a livello di notorietà nei confronti del suo prego, del suo nemico acerrimo che è Marquez. Quindi in questa lui è molto furbo Lorenzo, perché allora Lorenzo non è simpatico, gli si può dire tutto e non fa niente per essere simpatico, ma come pilota non gli si può dire niente. E mentre invece Marquez è quello che gli viene contestato è il fatto che lui fa buon viso a cattivo gioco, cioè alla fine è vero che è forte al suo stile tutto quanto, però gioca sporco e soprattutto ha giocato sporco nell'ultima parte della stagione. E i fatti che sono lì a dimostrare questo suo atteggiamento, lui ne esce sconfitto. Umanamente Valentino è il vincitore, non ha mai perso il sorriso, ricordiamocelo, perché quando è arrivato non ha mai avuto nessun gesto di stizza, nessuna delusione negli occhi, delusione normale. Sì, ma però ha sempre è stato dignitoso. Molto dignitoso. Ha porto il collo dignitoso alla ghigliottina sportiva che gli era stata apparecchiata. Esecuzione in diretta. Esecuzione. Aspettate, allora. Sì. sono tantissimi che hanno chiamato 800 24 00 24. Chi non riusciamo a passare adesso, noi siamo qui fino alle 19, quindi andiamo avanti. Però vediamo se riusciamo a dare anche qualche voce da fuori. Mario dalla provincia di Perugia. Mario. Sì, buonasera. Eccoci. Io sono estremamente amareggiato, non tanto dalla sconfitta di Valentino, che mi esce comunque vincitore, ma dall'atteggiamento di Mamma Onda. Io ho 44 anni, nasco ondista da 25 anni fa, vado in pista regolarmente. Io oggi ho messo l'annuncio per vendere la mia Onda. Non la voglio più. Sì, ma questo, questa è una cosa interessante, anche sì, perché quali sono analizzare. Gli scenari futuri del moto mondiale? Che succede l'anno prossimo? Aspetta che lo chiediamo a Roberto Ungaro. Roberto. Roby, ma secondo te Rossi e Lorenzo potranno correre ancora insieme? E secondo te la Repsol, che ieri pare abbia messo i suoi piloti con le spalle al muro chiedendogli la vittoria, certo. Gli sponsor... Insomma, allora, ci sono degli scenari pazzeschi per l'anno prossimo. Se Marquez avesse problemi con lo sponsor, io non mi stupirei, perché Marquez, l'atteggiamento che ha avuto, lui deve vincere, deve provare a vincere. È bellissimo l'ascoltatore, questo vi fa capire cos'è la passione nelle due ruote. Ma a me non stupisce, ma perché faccio parte di questo mondo, ma è così, il senso di appartenenza coi marchi, oltre ovviamente a un pilota. La Mamma Onda ha ragione l'ascoltatore, e la conferma, sapete chi è Livio Suppo, sì, che si nega a Marco Selvetti, che dice ciao e scappa via. Sì. Lui ha un nome sulla camicia e lo rappresenta, lui deve stare lì, politicamente rispondere, è pagato per quello. E poi dopo ha chiesto scusa di questo suo atteggiamento, però questo fa capire che c'è una coda di paglia, che c'è questa ambizione, lo sanno, ne sono consapevoli. Internamente c'è burrasca, perché non è il Marquez che siamo abituati a vedere. Oggi c'è una caduta d'immagine che evidentemente crea dei problemi anche a chi su quella camicia mette il proprio nome. Piero da Milano. Piero? Buonasera, eccoci. Sì, mi sentite? Predica. Allora, io ho tre velocissime considerazioni e una domanda. Allora, la considerazione prima è che Valentino ufficialmente è vincitore di questo mondiale, almeno dal mio punto di vista. Ufficialmente no, moralmente va bene. Poi, secondo me, Marquez è un pilota finito, perché ormai ha un'ombra sulla sua inizio di carriera che si porterà avanti per sempre. Ma la domanda vera che voleva fare, saltando la terza considerazione su Lorenzo, che con la dichiarazione sugli spagnoli si è smentito automaticamente, ma la Yamaha in tutto questo non ha mai preso una posizione, non ha mai difeso Valentino, mentre la Honda è scesa in campo difendendo Marquez, che era indifendibile. Questa è la domanda. Roberto. Per Yamaha era molto più difficile, perché ha due piloti contendenti il titolo, quindi è molto diversa la posizione più critica rispetto a Honda. Honda aveva solo Marquez, perché Pedrosa è fuori gioco. E quindi è diversa la posizione. Prima ho sentito dire il futuro di questi piloti, già rumors dicevano che Lorenzo era in forse, perché non è andato giù l'atteggiamento che ha avuto, si è fatto sentire quando è stata fatta la causa, bypassando la Yamaha, e questo è gravissimo da parte di Lorenzo, perché comunque devi coinvolgere la tua squadra. Si sentiva dire addirittura che Lorenzo non era così gradito, si pensava a un Iannone, sostituirlo con lui, si è sentita questa voce, e sarebbe stato un incastro perfetto, se ci pensate. Lorenzo è già stato molto vicino a Ducati, quando c'è stata crisi tra lui e la Yamaha, c'era già stato un contatto, era lì per andarci, poi dopo non se ne fece niente. Quindi questa scacchiera se ne parlava già, poi bisognava vedere come andavano i fatti. È stato campione del mondo, adesso vedremo. Certo che l'anno prossimo altro che muro ci dovrà essere in quella squadra lì, io non oso pensarci. Sì, ci vorrà il muro di Berlino. Due box separati. Assolutamente, grazie Roberto. Ciao Roby, a domani. Ciao. Grazie Roberto Ungaro. Adesso c'è il GR, però noi poi torniamo fino alle 19, ci sono già Lino dalla provincia di Monza, c'è Vincenzo dalla provincia di Forlì e Cesena, poi parliamo anche di calcio, facciamo sentire Garcia, viene Cesare Prandelli, quindi insomma abbiamo un'ora da vivere insieme. 800 24 00 24. Io non lo so se Marquez abbia protetto Lorenzo perché è spagnolo, però mi sembra anche molto triste che Marquez si riduca a fare il guardiaspalla di Lorenzo, ecco. Tutti convocati. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Dai, dai, andiamo. Tutti convocati. Se non sei sicuro, certo, prima di fischiare un rigore a inizio partita, in una partita così delicata, così importante, io credo che se bisognava prendere un'altra decisione, se tu non sei sicuro. Se poi dopo lui mi dice che ha visto nettamente dentro, ma è impossibile perché non c'era la visuale, è un peccato perché insomma le partite cambiano anche e soprattutto per questi episodi. Se l'avessero fischiato contro un rigore così, cosa avrebbe detto? Ma che è una questione di millimetri, forse se il piede fa l'intervento, quello che non penso, è fuori, se è il ginocchio è sulla linea e mi sembra che la linea fa parte, adesso non c'è contatto con i piedi, adesso con il ginocchio, possiamo dire di tutto, ma io preferisco parlare di fatti di gioco, di calcio, e non di episodi, perché non è cambiato nulla sulla vittoria della Roma, rigore o non rigore, era lo stesso. Appuntamento alla prossima, alla prossima volta, che magari i millimetri o la spanna, o anche forse qualcosa più della spanna, andrà contro Rudy Garcia. Noi non abbiamo niente contro la Roma, lo diciamo subito agli amici da casa, però noi abbiamo l'orticaria quando sentiamo gli allenatori che dicono noi non parliamo degli arbitri adesso, e poi magari fra 15 giorni staranno dicendo qualcosa di diverso. 800 24 00 24. Sto aspettando qualcuno che, ma forse aspetterò in vano, sì, qualcuno che dica ok, oggi ci è andata bene. Poi vediamo, ma credo non lo sentiremo mai. Allora, intanto saluto l'amico Stefano che ha scritto al 349-238-6666 che non ammettiamo le voci contrarie sulle vicende e siamo peggio dei cinegiornali EIAR. Allora, quali voci contrarie? Non lo so, noi li stiamo chiamando 800-24-00-24. Siamo qua, ci stanno aspettando Vincenzo e Riccardo. C'è però Roberto Renga. Roberto, buonasera a tutti. Ciao. Allora, ha ragione Pioli a dire il rigore che non c'era e non per questione di millimetri ha condizionato la partita. Ha ragione Garcia a dire comunque sarebbe andata così. Secondo me hanno torto tutti e due, perché Pioli l'ho sentito, non può dire, dice all'inizio della partita se non sei sicuro non lo sai, che c'entra inizio, fine o centrale della partita significa la stessa cosa. Se Tagliamento l'ha dato perché era convinto, ha sbagliato. Non c'è dubbio che la partita è cambiata, perché la Roma dà il meglio di sé in fase difensiva e contropiede, mentre la Lazio in questo momento ha giocatori così scarsamente in forma che non riesce a fare gioco d'attacco. Ha torto anche Garcia quando dice una questione di millimetri, perché tanto è una questione di 20 centimetri ad occhio e croce, e quindi i millimetri cominciano a essere parecchi. Ed è vero comunque che un episodio può cambiare, ma tatticamente una partita, non tecnicamente. Quello che emerge dopo il derby è che la Roma è più forte della Lazio comunque. Anche se non c'era bisogno forse del derby per scoprirlo. Sì, bravo, è una conferma. Cioè, è una conferma, la Lazio non è in un grande momento, nonostante la vittoria in Europa League. Una settimana fa ha giocato un'orrenda partita con il Milan. Però, insomma, anche la Roma, quei sei minuti di inizio ripresa con il Bayern Leverkusen, io li ho definiti pornografici, calcisticamente parlando, e lo penso ancora. Oggi non era una roba facile. Oggi non si Roberto. Sono visti, se c'è un dato da trarre. Questo è importante. Secondo me oggi la Roma ha fatto una partita difensiva molto molto più attenta rispetto al solito. Intanto tutte le critiche fanno bene. Poi Benchera ha fatto una buona partita lì davanti, ha giocato alla De Rossi, forse addirittura meglio, visto il De Rossi, no? Ultimo che non lo sta bene fisicamente. Nainggolan ha giocato per 2, per 3, per 4. Io per primo dicevo fatelo riposare che è stanco, questo è un ragazzo strano, non è stanco per niente. Poi Iago Falche che ha fatto una partita tattica perfetta, perché fingeva, no, di fare l'attaccante, in realtà faceva benissimo il centrocampista, poi se lo si è ritrovato anche in area. Questi sono tre giocatori che possono aver fatto la differenza, non c'è dubbio, perché Biglia non è in forma, Marchetti non è in forma, Parolo rientrava oggi, avete visto la presa sì o no una volta, Candreva non è in forma, Djordjevic nonostante i due gol in Norvegia non è in forma, e beh, chi c'era che stava bene nella Lazio? Felipe Anderson, che però è a luce intermittente, quindi anche lui va bene o non va bene. E comunque adesso la Roma, no, che sembra lanciatissima, no, da questo derby, anche se poteva sembrare, era favorita, poteva sembrare scontato il risultato, ha questa tegola di Salah, perché Salah si è fatto male sul serio. Sì, Salah... si è fatto male, non è giusto, non è giusto, perché Salah che si è fatto male alla caviglia, sì. Adesso da verificare, da capire, ma certamente non si tratta di un infortunio leggero, ed è un infortunio che avrà un impatto sulla Roma, perché Salah è un giocatore importante per questa Roma, si è visto anche oggi. Addirittura si spera la frattura anziché i legamenti. Tu pensa, cioè questo mi è stato detto, anche se è brutto parlare di queste cose, per carità, e quindi facciamo le corna, perché comunque mancherebbe un giocatore molto interessante al campionato italiano, tra l'altro non soltanto la Roma, perché la Roma comunque c'ha i Turbe, no? C'ha Iago Falche che può giocare davanti, c'ha Gervinho che è in grande condizione. È che però per esempio quello che è successo a Salah conferma quello che si pensava, cioè Tagliavento non è all'altezza di partite così difficili, perché Lulic andava espulso per esempio, quello che si Sì, io credo che la spiegazione di questo fine settimana sia che in quello scorso Messina ha dovuto schierare un po' tutti i pesi grossi, perché c'erano gare di altissimo livello e quindi insomma la coperta è corta, di Rocchi, di Rizzoli ce ne sono due, oggi non so perché Orsato era ad arbitrare, arbitrato ieri Verona-Bologna, ecco, forse Orsato poteva essere inserito in una rotazione di una delle partite messo calde di questa domenica, però insomma la classe arbitrale italiana è questa. C'è il traffico, saluto Roberto Renga, grazie. Ciao, Roberto. Sì, buona alla prossima. Ciao. Grazie Roberto Renga. 800 24 00 24, torniamo subito dopo, prima di sentire Cesare Prandelli con Riccardo Vincenzo. D'accordo? Traffico. No, l'unica cosa che è un po' un peccato è che qui le grandi aree fanno 17 metri, è solo questo. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Tutti convocati. Biscotta moccate, uno, due, tre, biscotta viaggia a te. Non ti dà un po' fastidio, Danny, che l'unico sorpasso che Marquez abbia fatto l'ha fatto con te? Non so, perché alla fine io ero in distacco di loro, ho provato a cercare di concentrarmi al massimo sulla mia guida, perché volevo non perdere troppo distanza, fino alla fine che ho visto che andavo molto vicino a loro, e lì ho visto la tabella, due giri, ho detto devo fare l'attacco adesso, però il mio attacco è andato lungo e dopo l'ultimo giro io non ho potuto fare il recupero ancora, perché ho sbagliato una marcia alla seconda curva e da lì era finita per me, però sì, non posso dire per gli altri, devo solo dire di me. Ma Petrosa è stato onesto e dignitoso oggi, ha fatto la sua gara. 800 24 00 24, Vincenzo dalla provincia di Forlì e Cesena. Vincenzo. Sì, buonasera. Eccoti, scusa per l'attesa. No, va benissimo. Stavo considerando che un bel po' di responsabilità ce l'ha il presidente Yamaha, da Ivata avrebbe dovuto imporsi. Perché? Perché? Perché Yamaha nella Superbike non c'è più, quindi l'unica vetrina di marketing, almeno per la divisione moto, perché Yamaha puoi fare dell'altro, strumenti musicali, eccetera, eccetera, sappiamo che è una gran bestia, avrebbe dovuto dire bene, benissimo. Il mondiale costruttori è acquisito, nessuno ce lo toglie, quello piloti, vediamo chi è il migliore. Allora, acquisito benissimo il primo posto in griglia di Di Lorenzo. Però scusa, la Honda in questo gioco dove la metti? Perché secondo me il gioco l'ha fatto la Honda. Sì, l'ha fatto Marquez. L'ha fatto Marquez. Si vince. Non è la Yamaha la danneggiata da questa vicenda. Ne esce malconcia la Honda. Momento. No? Ma la Yamaha avrebbe potuto anche comportarsi diversamente. Io vedo addirittura oltre la Dorna andarsi a imporre e dire benissimo, è primo in griglia, può aspettare l'altro e se la gioca. Indipendentemente non credo. Ma chi è che fa vendere più moto, scusate? Ma sì, però insomma dei due. Non solo vendere moto, posso dire una cosa? Già è stato sconcio quello che abbiamo visto. Esatto. Eviterei di aggiungere vergogna, grazie Vincenzo. Modo, io da presidente Ivata mi sarei imposto oltre Evidentemente la Yamaha è rimasta un po' così, forse un po' subita. Poi vedremo cosa succede adesso con Lorenzo che è dato in partenza per la Ducati. Ci sono tanti ducatisti che scrivono contenti e dicono godiamo per la sconfitta di Valentino Rossi, aspettiamo Lorenzo. Ci sta, in Italia siamo anche fatti ci così sta, va benissimo. Riccardo dalla provincia di Bergamo, intanto 0-0 Napoli-Udinese, 17° minuto del primo tempo. Riccardo, buonasera a tutti. Prego. Allora, sono appunto, come vi ho detto prima, un ragazzo di Bergamo. Sì. Sono andato a Tavuglia a vedere la gara al maxi schermo in piazza. Siamo partiti ieri 30.000, no? Sì, esatto, siamo partiti ieri sera, ieri notte, abbiamo dormito in macchina perché era Tavuglia era tutto pieno, è stato terribile, però ci siamo svegliati all'alba per tifare il dottore, come sempre. Questa stagione è stata molto intensa. Abbiamo io e il mio caro amico Francesco, con cui sono andato a Tavuglia, anche lui di Bergamo. Abbiamo visto tutte le libere di ogni gara, anche quelle in Oriente, dove bisognava svegliarsi alle 4, alle 5 del mattino, così. Sempre, seguito Valentino sempre, e purtroppo poi veniamo a conoscenza di questo schifo che hanno fatto i due spagnoli, e quindi siamo molto amareggiati e delusi. C'è un profondo senso di delusione, Riccardo, ti capiamo, anche se c'è chi, e noi continuiamo a dirlo perché siamo aperti a tutti, chi la pensa diversamente, chi invece oggi sta festeggiando. C'è anche chi pratica ad altissimi livelli, ha praticato uno sport che spesso viene additato per essere patria di comportamenti antisportivi. Qualcuno l'ha anche detto all'inizio, non siamo il calcio, siamo il motociclismo. Fatemi chiedere a Cesare Prandelli, che saluto intanto. Prandelli, buonasera. Buonasera a tutti. Io oggi dico che è offensivo per il calcio l'accostamento con quello che abbiamo visto nella MotoGP, però questo è il mio pensiero, Cesare. Tutte le forme di sport, è offensivo per tutte le discipline sportive, non solo per il calcio, per il motociclismo. Non abbiamo visto un bel pomeriggio di sport, non l'abbiamo visto. No, ridiamo perché qui arrivano, Prandelli, dobbiamo dirglielo, messaggi, ci sono davvero messaggi incredibili, anche di italiani che in questo momento stanno festeggiando la sconfitta di Valentino Rossi. Non mi meraviglio. Il gufismo fa parte di noi, Cesare. Il gufismo ci appartiene. Parliamo un po' di calcio, perché ad esempio giustamente ci scrivono anche tanti tifosi dell'Inter, noi siamo stati sommersi dalla questione Valentino Rossi, insomma. Bravo. Oggi l'Inter ha un po' sparigliato, i numeri dicono 7° 1-0 della stagione, forse Mancini deve tantissimo ad Handanovic oggi, che è stato strepitoso in alcune parate, però questa Prandelli è una vittoria pesante, questa a Torino. È pesantissima perché su un campo molto molto difficile, con una squadra in forma, salute, che in pratica è un gioco consolidato, e l'Inter si sta piano piano ritrovando, nel senso che Mancini ha dato in questi mesi uno spirito eccezionale dal punto di vista della ricerca del risultato. Adesso darà anche la qualità che tutta la gente, che tutti i tifosi vorrebbero avere, ma sono primi in classifica, i numeri sono chiari. Girata di Higuaín, fil di palo, Napoli-Udinese 0-0, 21esimo. Curioso però, Cesare, che insomma all'Inter nessuno crede ancora, cioè tutti dicono Napoli-Roma. Ma questa è la forza dell'Inter, probabilmente. Sarà la forza dell'Inter, nessuno ci crede, sono primi, continuano ogni domenica a raggranellare, ma anche la consapevolezza che possono dare una continuità a questa classifica. È una squadra nuova, è nata quest'estate. Le altre sono 2 o 3 anni che sono, insomma, gli impianti di gioco del Napoli e Roma se non sbaglio sono 3 anni che è consolidata, quindi l'Inter ha questo svantaggio, ma il vantaggio di scoprire settimanalmente qualcosa di nuovo nella propria squadra, e quindi io sono convinto che sarà protagonista fino alla fine. Sì, c'è un dato che mi colpisce, quella di oggi di Mancini è stata la 12ª formazione diversa in 12 giornate, ma oggi è tornato la difesa 3, quella che era naufragata contro la Fiorentina nella prima mezz'ora della partita, la peggiore partita di quest'anno dell'Inter. Evidentemente ci sono dei limiti che ancora non conosciamo, forse non conosce nemmeno Mancini di questa rosa. Vuol dire anche che ha la squadra in mano però, eh? C'è la squadra in mano, sono perfettamente d'accordo. Quando cambi tanto vuol dire che comunque tutti stanno accettando questa situazione e lui sta ricercando la squadra che dia più equilibrio. E riesce a tenere tutti su grandi attenzioni, quindi cambia anche il modulo e ha comunque dei buoni risultati a parte la partita con la Fiorentina. È una squadra che sa cambiare durante la gara, quindi ha giocato anche questa oggi con un centrocampo 3 che poi ha modificato un po', con una difesa che in base all'avversario si è messa 4-3, quindi vuol dire che stanno lavorando anche bene durante la settimana. Sì, oggi intanto ha vinto la Juve, ha vinto Empoli, ha sofferto. Io guardo la classifica, Juve che sale a 18 punti, è lontana 9 dall'Inter, 8 dalla Roma, vediamo cosa fa stasera la Fiorentina, vediamo il Napoli che dopo 22 minuti è sullo 0-0. Ho però l'impressione che il campionato stia cominciando a prendere davanti una fisionomia chiara, perché se Inter, Roma, Napoli, Fiorentina vanno a questa velocità, insomma, per la Juve diventa difficile. Io non so come l'hai vista oggi. Ma allora, chiaro che se queste quattro squadre danno questa continuità, dura per tutti, non solo per la Juventus, ma per quelle che sono anche un punto o due. Però la vittoria di oggi è stata forse la seconda vittoria consecutiva della Juve quest'anno. Sono 3 punti molto importanti, su un caso particolarmente delicato. Quindi io non darei spacciata proprio la Juve al 100%, anzi. Il recupero, però le quattro davanti stanno lavorando bene, stanno dando una grande continuità. Come si diceva qualche settimana fa, lo ripetiamo, è un campionato molto interessante. Quando ci sono molti tifosi che gioiscono e che sognano, questo è un po', diciamo, la vita del calcio. Sì, Cesare, posso farti una domanda un po' difficile, magari scomoda? Me la permetti? Certo, assolutamente sì. Le parole di Buffon dopo Reggio Emilia a tutti quanti hanno ricordato quelle dopo il Mondiale. Io più volte ho detto, non è che Allegri finisce ostaggio della vecchia guardia? Ma sai, sono quelle parole che le escono praticamente quando capisci che i nuovi non riescono a capire la mentalità della squadra, non riescono a capire certe situazioni particolari. La differenza è che con la nazionale una partita ti giochi tutto, tutta una vita. Sì, certo, in una squadra, certo, di club ogni 3 giorni hai la possibilità di rifarti, puoi perdere 3, 4, 5 partite e poi riesci comunque a trovare una strada comune. E quando sei un evento straordinario come il Mondiale, basta una partita che mette in discussione tante situazioni. Quindi io non ho trovato niente di particolarmente nuovo, insomma. Però ha fatto bene Allegri a mettere un punto, lo ha fatto dopo la Champions, adesso ha detto però adesso basta parlare di senatori, di giovani, perché l'impressione era quella di uno spogliatoio onestamente non compatto. Ma non l'impressione, la realtà, perché dopo Buffon, dopo Evra Bonucci, cioè, mi sembra che sia stato un pubblico lavaggio di panni sporchi. Ma sai, molto probabilmente questi giocatori, avendo vinto tanto e avendo vinto in una maniera straordinariamente importante, stanno trovando difficoltà nel trasmettere determinati valori. Allora, se in questi mesi tu hai continuato a lavorare da un punto di vista del rapporto e non sei riuscito a incidere, per forza di cose ti devi esporre. Allora l'esposizione è mediatica, è forte, quindi i compagni che hanno sentito, non Buffon, che probabilmente l'ha sentito in questi 4 mesi di le stesse cose, lo vedono in televisione e hanno una risonanza clamorosa, e quindi c'è probabilmente da parte loro la voglia di capire di più. Tanti sono nuovi, tanti sono ragazzi giovani con grandi qualità, ma la qualità più importante di una grande squadra è la continuità. tutti i giorni di dimostrare di essere la grande squadra. Sì, continuità che la Juve poi dovrà dimostrare già da dopo la sosta, perché adesso c'è la sosta per la nazionale, tra l'altro pausa importante perché deve cominciare a darci qualche risposta in quelle che sono il nostro tallone d'Achille, e cioè le amichevoli. C'è il Belgio che è la numero uno del ranking, quindi insomma è un test probante. Io voglio fare l'ultima domanda veloce a Cesare Prandelli, poi lo salutiamo e lo ringraziamo, invece sulla Fiorentina, perché questa sera anche la Fiorentina deve dare una risposta importante a Marassi. Paolo Sosa continua a tenere i fari spenti e, per carità, dal suo punto di vista ha ragione, ma qual è l'orizzonte di questa Fiorentina? Che cosa può dire stasera la partita con la Samp? È una partita da vedere, da capire, da leggere, perché la Fiorentina ha dimostrato sui campi di Napoli, Milano, eccetera, di giocare il calcio che preferisce, un calcio dove da subito cercherà di aggredire l'avversario nella propria metà campo e con due passaggi cercherà di concludere le azioni. Quindi sarà molto interessante vedere come Walter Zenga ha preparato la partita, se avrà la forza e la volontà di accettare questo duello o di cambiare strategia. Quindi il calcio in Italia è questo, c'è molto tatticismo, c'è molta strategia, ma da un punto di vista, diciamo, della mentalità, secondo me Paolo Sosa ha portato qualcosa di nuovo nel... E se stasera si conferma, per favore, anche la Fiorentina, come l'Inter, come altre, sì, ecco, non accettiamo anche più il gioco a nascondino. Non è una parolaccia, no, l'ha detta De Laurentiis proprio qui da noi questa settimana, ha infranto questo tabù sulla parola scudetto. Grazie Cesare Prandelli. Grazie a voi, Cesare Prandelli. Gio, Higuain ha sbagliato un altro gol, è la seconda grande occasione per Higuain. Nel primo caso girata da centro area a fil di palo, e in questo caso guarda tu stesso sul filo del fuorigioco, in posizione regolarissima, che spara da sul portiere. Sì, era solo davanti a Carnezis. 8-0-0-24 c'è il Milan, c'è ancora Valentino Rossi contro Marquez, Lorenzo contro il resto del mondo, noi moralisti, anche un po' moralisti? Populisti, ci scrive qualcuno. Torniamo subito. Palacio prolunga sul secondo palo, sbuca con Kondogbia, eccolo qui, finalmente Kondogbia, è il gol numero uno in Serie A per lui, è il gol numero uno dell'Inter, che passa in vantaggio all'Olimpico con Geoffrey, con Dogbia. Tutti convocati. State ascoltando un programma offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Tutti convocati. 1, 2 e 3. O biscotta moccate e logicamente non mi piace che la gente adesso è in contra, ma alla fine per un pilota dire che aiuta un altro che non è compagno di squadra, niente, che dice che lavora per l'altro, questo per un pilota come me è una falta di rispetto, ma alla fine vediamo, proviamo di fare il nostro 100%, comunque proviamo di lavorare il prossimo anno a lottare per il campionato. Questo chi era? Marquez, che parlava di falta di rispetto. Era proprio lui. Era proprio lui. Vabbè, insomma, 8-0-0-24. Curioso di vedere cosa succede intorno a Marquez anche al capitolo sponsor. Sì, Lorenzo abbiamo già visto, ma nei prossimi mesi credo se ne parlerà. Solo l'inizio. Tanto Napoli due volte vicino al vantaggio con Calleon, 33esimo minuto, 0-0, sì, Napoli-Udinese. Però tu mi insegni che se continui a sbagliare in questo modo, cioè, mi sembra la fotocopia della partita con il Genoa. Sì, Calleon qui è arrivato davanti a Carnezis, si è leggermente allungato il pallone, contatto, ma non c'era rigore. Non c'era rigore. Allora, Francesco dalla provincia di Bari. Pronto? Eccoci Francesco. Buonasera. Allora, chiedo e ringrazio e mi sono fermato. Sì. Benissimo, grazie. Finalmente dopo l'attesa ce l'ho fatta a parlare con voi. Prego. Volevo dirmi una cosa semplicissima. Oggi ero a Tavuglia. Sì. Ok, uno spettacolo finito. È vergognoso che ci siano degli italiani ducatisti o presunti tali che gioiscano per quello che è successo. Comunque, ma in Italia. Però ci sono. Però, insomma, fa parte del gioco, no? Ci può stare, sì, vabbè, ma ci può stare. Ognuno ha il diritto di tifare per quello che vuole, Francesco. Però veramente mi sembra che sia veramente di cattivo gusto. Comunque, opinioni stabilissime. Per quanto riguarda Marquez, Lorenzo, sono dei bambini. come c'è limitazione in rete, che dove chiamano Marquez, bimbo minchia, allora ma là sono dei bambini. Valentino è un uomo, poteva anche non correre perché non aveva più nulla da dimostrare, quindi esce non da signore, di più. No, non sono d'accordo sul fatto che poteva anche non correre. No, doveva andare a fare quello che ha fatto. Doveva andare a fare quello che ha fatto, anche per rendere palese la differenza tra lui e gli altri. Per un milione di motivi. E questo io lo dico agli amici, perché poi non significa che Valentino Rossi nella sua carriera non abbia avuto episodi controversi e anche atteggiamenti e comportamenti in pista, diciamo, borderline. Ma anche Valentino oltre il Rossi ha sempre ingaggiato duelli faccia a faccia con i suoi avversari diretti per il titolo mondiale, ed è questa la grande differenza, che è lo sport, è l'essenza dello sport, ma non solo nel motociclismo, ovunque. Ivan da Brescia, buonasera a tutti. Buonasera. Ivan, anch'io ero a Tavuglia e volevo c'era qualcuno che non era a Tavuglia no, io non c'ero, Giovanni Capuano neanche, quelli che giocavano a calcio nel pomeriggio nemmeno, magari qualche tifoso di Roma e Lazio. Io sono anche romanista, me lo sono fregato dal derby completamente, me l'ho dimenticato assolutamente. Però è andata bene, te lo diciamo noi. L'ho saputo, forza Roma. Comunque sia, forza Vale soprattutto, e volevo studiare la grande cornice di Tavuglia straordinaria, e al ragazzo di prima che parlava, io volevo dire che Valentino doveva correre anche perché ha fatto una gara straordinaria e ha emozionato tantissimo, e io sono contentissimo di essere stato lì. E volevo anche rispondere al ragazzo che prima, 10 minuti fa, ha parlato, aveva detto che Marquez e Lorenzo facevano schifo, qualcosa del genere. Io penso che sia stato molto carino nei loro confronti, e l'appellativo, l'aggettivo che può definirli, non posso dirlo perché forse sono ragazzi minorenni. Quindi sì. Ci ascolta anche qualcuno, Ivan, per carità. No, io voglio dire che non si fa così. Non voglio. Cioè, il biscotto comunque è palese. Sì, è stato dichiarato e servito dallo stesso Lorenzo. No? Assolutamente. Cioè, l'ha messo lui sul vassoio, mi pare, con dichiarazioni inequivocabili. Certo, è vero, eravamo davanti a Massimo a insultarlo tutti insieme quando ha detto questa cosa, come abbiamo insultato Marquez, ma in modo elegante noi, perché non siamo come loro. Comunque sia, forza Vale, gran mondiale, per noi è nostro mondiale, i pesci abbiamo vinto e vinceremo l'11° l'anno prossimo. Guarda Ivan, sei simpaticissimo, sì. 349-238-6666, però adesso ci scrivi via SMS, che quindi insomma, non possiamo leggere, però ci scrivi cosa significa in maniera elegante insultare... Sì. Lorenzo e Marquez, sei un briccone. Intanto grande occasione ancora per il Napoli con Higuain, questa volta diagonale, bello preciso ma leggermente largo sulla sinistra della porta di Carnezis. Alessandro da Roma, eccomi qua, buonasera. Eccoci. Eri a Tavuglia anche tu? No, non ero a Tavuglia, ero a Roma, sono motociclista da 40 anni, anzi forse di più, e romanista. Di che parliamo? Di quello che vuoi. Cominciamo con la Roma. Sì. Allora, la cosa giusta secondo me l'ha detto il signor Renga, la Roma oggi ha dominato la partita, punto. È vero, abbiamo avuto un rigore inesistente, questo lo dico tranquillamente. Ma certo, abbiamo comunque vinto 1-0. Ma difatti il tema non è questo, è evidente che il rigore fosse inesistente, a noi urta un po' sentire quello che ha detto Garcia, poi dopo del resto si può discutere, compreso del fatto che la Roma sia superiore alla Lazio, prego. Ma perché gli altri allenatori che fanno non dicono la stessa cosa? Fa parte del gioco, è normale che dica questo, no? Mi sembra più che normale, una cosa normalissima. Sì, dicevo prima che stiamo aspettando uno che esca dal coro, no? Perché uno che sia un po' diverso rispetto agli altri, semplicemente allora, io questo. Io romanista, l'abbiamo visto, ero in casa di amici, abbiamo detto tutti quanti questo non è rigore, tranquillamente. Certo. Però la Roma oggi ha dominato la partita, punto. Quindi è stato giusto che la Roma abbia vinto questo match. Sì, sembra... ma sul fatto che abbia controllato la partita fin dall'inizio, cioè, penso sia una verità inequivocabile questa. Quindi... Poi vogliamo parlare di Rossi adesso? Sì. Di quello che vuoi, parliamo allora, di Rossi. Io vado in moto e continuo ad andare in moto e vado in pista, sì, a giro, insomma, comunque di moto ne mastico da 40 anni. Allora, non sono rossista, sono ducatista, ma non sono contro Rossi. Allora, ci può stare essere ducatista e non contro Rossi, eh? Non è che tutti i ducatisti stanno è la questione degli atteggiamenti del signor Rossi, che da sempre non è particolarmente simpatico. Ma a parte questo, quest'anno mi hanno fatto diventare simpatico Rossi, perché effettivamente quest'anno il signor Marquez ha ucciso il mondiale. Dal 49 il mondiale è nato nell'isola di Man. Quest'anno lo hanno ucciso. Io l'anno prossimo non guarderò più è il morto mondiale. Sepanga. Guarda, io sono convinto che forse oggi sia stata una scena anche peggiore rispetto a Sepanga. Oggi ha fatto veramente schifo, una pena. Oggi mi ha fatto veramente pena. Ha impedito anche al suo compagno di squadra di andare a rompere le scatole a Lorenzo. No, di rompere le scatole, di vincere la gara, perché andava mezzo secondo più veloce. Certo. Cioè, e gli ha mandato un messaggio chiaro: stai dietro e non andare a toccare Lorenzo. Sì, ha ragione anche l'amico che scrive Fabio. Oggi è andata in scena una delle pagine più vergognose dello sport. Poi qualcun altro dice: però ragioniamo sugli errori di Valentino Rossi, ad esempio a Misano. Per carità, sì, si può fare tutto. Sì, domani ci sarà tempo per fare l'analisi della stagione. Domani. Allora, 0-0 Napoli-Udinese. Intanto saluto Monica Colombo. Ciao Monica. Ciao, buongiorno. Allora, Monica, abbiamo il traffico. Io però ti chiedo, prima del traffico, in estrema sintesi, di classificarmi da 0 a 10 l'indice di arrabbiatura di Berlusconi quando, per la seconda volta consecutiva, deve andare nello spogliatoio della squadra avversaria, Sassuolo e Atalanta, non Barcellona e Bayern Monaco, a fare i complimenti, come è capitato ieri sera. Sì, l'ho anche incrociato prima che si infilasse in ascensore e fuggisse via da San Siro. Diciamo che un 8.5 mi sembra una buona cifra. Un indice realistico. Fosse Moratti sarebbe poco simpatico. Traffico. Una tifosa, si chiama Annalisa, per cercare di strapparle un sorriso in questa serata, scrive: ma vista la prestazione di questa sera, mi raccomando, niente cena questa settimana, vero? Ma ha messo anche uno smile. No, devo rispondere. Sì. Era per strapparle un sorriso. Per strapparle un sorriso. Ah, vabbè. Allora non ci siamo riusciti, dai. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento. Convocati. Il Milan dove deve arrivare? Può arrivare anche allo scudetto, la Champions? Puntare al massimo, dice il presidente. Maxi Morales taglia Gomez, il cross, il colpo di testa di Cigarini due volte. Donnarumma strepitoso, salva il Milan. Berlusconi è andato nello spogliatoio dell'Atalanta, ha fatto i complimenti all'Atalanta e di Reia, poi è venuto da voi. A voi invece che cosa ha detto? Non lo so, non c'ero io in spogliatoio quando è venuto, perciò non lo so cosa ha detto. Altro scambio, Maxi può calciare in porta, Donnarumma sul primo palo, si salva di nuovo, Milan in grande affanno. Possiamo dire quello che ha detto quando è arrivato a San Siro: il Milan deve puntare all'obiettivo massimo. Io le chiedo, qual è l'obiettivo massimo di questo Milan? È questo che ha detto il presidente: il nostro obiettivo è andare in Champions. Maxi può calciare in porta, Donnarumma sul primo palo, si salva di nuovo, Milan in grande affanno. A proposito di Silvio Berlusconi, che è entrato negli spogliatoi a fine partita a parlare con la squadra, qualcuno una parola gliel'ha strappata a fine partita. Uscendo, a chi gli ha chiesto, chi è riuscito a chiedergli se era soddisfatto per questo Milan, ha detto: ma mi state prendendo in giro? Allora, questa è la sintesi sonora di Milan-Atalanta ieri sera. Monica Colombo, Corriere della Sera. Mi sembra Mihajlovic un po' ruvido nel commentare Berlusconi. Allora, non tirando fuori il fatto che è dipendente, datore di lavoro, però conoscendo come vanno le cose al Milan, non lo so, è la spia di qualcosa, di un disagio. Ma io credo che lui si aspettava delle ingerenze da parte del presidente Berlusconi, perché conosce benissimo la storia di questo club e quindi è consapevole delle continue ingerenze a livello di formazione, di suggerimento di moduli, eccetera. Detto questo, già il giorno della presentazione Mihajlovic disse: io sono aperto al confronto col presidente purché tutto resti tra noi. E invece mi pare che in questo questi pochi mesi di presenza, diciamo, di Mihajlovic sulla panchina del Milan, le esternazioni del presidente ci sono state, come nel senso che non ha mai fatto mancare all'esterno il suo pensiero riguardo alle formazioni, agli obiettivi, ai moduli, ai suoi desiderata. Ecco, credo che sia proprio questo un po' l'atteggiamento che indispettisce il tecnico serbo, che peraltro già di carattere ha un atteggiamento un po' sì, da duro spigoloso. E poco paraculo, ecco. Sì. 0-0 intanto tra Napoli Udinese fine primo tempo, con Napoli che ha sbagliato una quantità industriale di palle gol, questo può essere pericoloso. Però è vero quello che dice Monica Colombo Giovanni, è altrettanto vero che nel momento più delicato Mihajlovic se l'è giocata da solo. Forse abbiamo detto in molti, sfidando quasi Berlusconi, da Donnarumma in porta a una formazione, un modulo che ha scelto lui e che l'ha portato a tre vittorie, no? Se la domanda è per me, rispondo sì. Io. No, è una considerazione che lascio lì. Ah, ok. Sì, no, questo è vero perché, come dire, se fosse stato per il presidente si sarebbe dovuto proseguire sulla linea del 4-3-1-2, e invece quando ci fu l'incontro ad Arcore, se non ricordo male, dopo il 4-0 col Napoli, Mihajlovic cercò di convincere il presidente a virare su una soluzione intermedia, cioè il 4-3-3, prima di approdare al 4-4-2, considerando sempre che Berlusconi vuole in campo le due punte. E anche sulla scelta di Donnarumma probabilmente la paternità è completamente di Mihajlovic, perché i dirigenti erano un po' perplessi all'idea di mandare allo sbaraglio, tra virgolette, un giocatore di 16 anni bruciando, col rischio di bruciarlo e comunque demotivando sia Diego Lopez che Cristian Abbiate. Sì, poi oggi si legge che addirittura potrebbe arrivare Sirigu a gennaio. Adesso io non so se sia uno scenario compatibile con le scelte tecniche del Milan o se sia fantacalcio, però indica che Donnarumma difficilmente può essere Monica il titolare fino a fine stagione. Ma io credo che se non compirà delle scelte, delle parate scellerate in porta resterà, anche perché mi sembra che ieri sera sì. Comunque ha puntellato. Oggi è il giorno sbagliato per parlarne. Io però voglio essere un po' ruvido, e cioè se Berlusconi dice complimenti all'Atalanta perché ricorda il mio vecchio Milan, complimenti al Sassuolo perché in 10 ha fatto la partita, quanto tempo ha Mihajlovic a Milanello, o che cosa deve fare? Cioè, cerchiamo di, abbiamo 2 minuti e mezzo, cerchiamo di andare al sodo, perché insomma noi abbiamo imparato a leggere tra le righe di Berlusconi, ma qui mi pare che c'è poco da leggere tra le righe, Monica. Sì, mi sembra che quello che era stato un po' il feeling scattato quest'estate tra i due sia andato un po' scemando. Cioè, diciamo, è già così. Oltre Berlusconi, è già oltre Mihajlovic. Berlusconi è già oltre. Io credo che finora, nelle ultime settimane, Mihajlovic è stato salvato dai risultati che vanno comunque ascritti, attribuiti a suo merito. Il futuro è solo nelle sue mani, nel senso che visto che anche il presidente ha detto che il piazzamento in Champions è fondamentale per il futuro del club, per la quotazione in Borsa Hong Kong, per quello che deve essere il valore del Milan, a maggior ragione, insomma, se andrà in porto la trattativa con Mr. B, io credo che non si può non avere il terzo posto come obiettivo. Vediamo se Mihajlovic riuscirà nelle prossime settimane a come dire, mettersi in competizione per questo traguardo, perché sì. Comunque in questo momento ora il Milan è fuori, sì, anche Milan è fuori. E segnalo che alla ripresa c'è Juve-Milan, sì, e la Juve potrebbe, con questo inizio di stagione, potrebbe anche vincendo scavalcare il Milan. Grazie Monica. Ciao Monica. A voi. Grazie Monica Colombo. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone Gettone, autrice di questa puntata. Oggi ha avuto mille mani, mille orecchie, altrimenti non saremmo arrivati in fondo. Ringrazio Valeria Bernardi e Roberta Frisani per la pazienza in una giornata un po' così. Ciao, tutti Carlo. Quelli che hanno telefonato, tutti quelli che hanno telefonato domani. Domani dopo le 14, certo, riaggiornata tutti, il processo a, soprattutto credo, MotoGP. Sicuramente. Assolutamente. Noi ci sentiamo domenica prossima. Ciao. Ciao a non tutti. È così facile, era un po' illusorio pensare. Certo, uno pensa Rossi, pensa ai miracoli, ma i miracoli non sempre possono riuscire. Questa è la MotoGP,